Sacred ground, he cried loud into the crowd. Buonasera, ben ritrovati per una nuova puntata di Up con Nicky D'Andrea al microfono per le prossime 2 ore. Abbiamo iniziato subito con un brano, anzi con la title track del nuovo album di David Bowie, e in effetti questa puntata doveva iniziare in maniera un po' diversa, solo che strada facendo la registrazione della puntata che appunto doveva essere un tributo da parte mia a David Bowie, registrato proprio il giorno stesso della notizia, quindi lunedì scorso, effettivamente è andata persa. Non so per quale motivo, sicuramente il primo motivo è la mia dabbenaggine qui al computer, però io ci riprovo e qui io spero di fare un tributo non troppo ovvio al Duca Bianco, ma di riportare magari qualche notizia, qualche curiosità e di farvi ascoltare qualcosa che magari non si ascolta di solito, cercando di scavare tra una discografia tutto sommato anche abbastanza ampia. Un disco, questo Black Star appena uscito, che ho ascoltato nei giorni scorsi con riferimenti esoterici, un disco che non doveva essere effettivamente il suo ultimo lavoro, come riferito dal produttore, suo compagno, diciamo, come produttore da diversi decenni, Tony Visconti, ma David Bowie gli aveva chiesto una settimana prima di morire proprio di poter registrare un ultimo lavoro. Quello sarebbe dovuto essere proprio il suo addio effettivo ai fan e al mondo della musica. Forse uno degli omaggi più originali è quello che ha fatto una radio fiamminga, Studio Brussels, insieme al MIRA, il più vecchio osservatorio astronomico del Belgio, che ha individuato una costellazione di 7 astri che formano il fulmine, divenuto uno dei suoi simboli con l'uscita di Aladdin Sane. E le 7 stelle vicine a Marte, anche questo ovviamente un riferimento a Life on Mars, nella posizione del giorno della sua morte. E non si tratta di una nuova costellazione in realtà, ma di un asterismo, ovvero di un gruppo di stelle visibili nel cielo notturno e riconoscibili per la loro configurazione geometrica, quella di un fulmine. See. push their backs against the grain and fool them all again and again. I'm trying to. It's all gone wrong, we're all in on the bitter nerve and it's never end. I'm falling down. Don't believe for just one second I'm forgetting you. I'm trying to. I'm dying to. I know pretty much what the rhythm track should sound like, but once that's accomplished, I really leave it up to the top level lead musicians to push themselves as far as they can. And there's nothing better than watching a musician surprise himself. And when he, oh, that's really, what have I done there? That's the point, that's the magic of recording. We've got all the aggression that we want on those, coupled with the gentle thing on the first three. Yeah. Plus my favorite thing was he says, well, I'm just guessing through it. But I want music to create an alternative or a counter atmosphere to what's already existing. I think everything is a labyrinthine existence that we live, and so that it makes sense for me to put together elements in a song which wouldn't naturally be good bedfellows. If you hear an accident three times, it's an arrangement. It takes on a different context entirely. Pieces of information that don't naturally gel well with each other. I always thought of the English singer-songwriter Morrissey as a sort of a sexual Alan Bennett, the British playwright, because of his attention to detail. He'll take a small subject matter and make a very grandiose statement of it. His last album, Your Arsenal, was produced, ironically, by Mick Ronson. And Mick sent me a copy of the tape, and I couldn't but notice that one of the songs on the album, I Know It's Gonna Happen Someday, was a kind of a parody of one of my earlier songs, Rock and Roll Suicide. The suicide bit. Okay. And so I sort of thought it would be fun to take that song and do it the way I would have done it in 1974-ish. I So come dovrebbe suonare la traccia ritmica. Una volta che quella è completata, allora lascio che siano i musicisti a spingersi più in là possibile. Non c'è niente di meglio che vedere un musicista superarsi e sorprendersi. Questo è il punto, la magia del registrare. Voglio che la musica crei una controatmosfera alternativa a ciò che esiste di già. Credo che le nostre esistenze siano perse in un labirinto nel tempo, per cui per me ha senso mettere insieme elementi in una canzone che non sarebbero naturalmente buoni e cattivi compagni. Se senti un incidente tre volte, quello è un arrangiamento, entra a far parte di un contesto completamente diverso, come pezzi di informazione che di solito non si fondono bene tra di loro. Ho sempre considerato Morrissey una sorta di Alan Bennett sensuale, il drammaturgo inglese Alan Bennett, per il modo in cui tratta i dettagli. Può prendere un argomento insignificante e farne una dichiarazione grandiosa. Il suo ultimo album, Your Arsenal, venne prodotto ironicamente da Mick Ronson, e Mick mi mandò all'epoca una copia del nastro, e non potei non notare che una delle canzoni, I Know It's Gonna Happen Someday, il brano che abbiamo appena terminato di ascoltare, era una sorta di parodia di Rock and Roll Suicide. Quindi ho pensato che sarebbe stato divertente prendere quella canzone e renderla nel modo in cui l'avrei fatta io attorno al 1974. We're outside once again for our Lincoln Garage Concert Series. Two great performers out on the Area 2 tour. Please welcome David Bowie and Moby. On the cement floor, just wishing that I had just something warm. I put it on when I go lonely. Won't you take off your dress and send it to me? I miss your kissing and I miss your hair and a letter in your writing. Run outside in the desert heat.

beautiful darling. In every dream home, there's a heartache. Every step I take, takes me further. Beautiful baby, beautiful darling. But you mail order. Beautiful sweetheart, I'm a king bee for you. I'm a king bee, baby. Buzzing round your hive. Film star, baby, buzzing round your heart. You got a wiggle and a wall, you got a giggle and a talk. You got a wiggle and you won't, got a giggle and a talk. Baby, you my girl. Boom, boom, boom, boom. Shoot you right down, right over your feet. Boom, boom, boom, boom. Beatles, Hot Sales, Eric Scummerhorn, David Bowie, Wet Tin Machine. Thank you very much. E vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Up. Dopo questa torrenziale e acidissima versione di Heaven's in Here dei Tin Machine, 11 minuti di acido delirio per quanto riguarda la formazione che vedeva David Bowie alla chitarra e alla voce, Reeves Gabrels alla chitarra, Tony Sales al basso e Hans Sales alla batteria. In questo caso c'era un chitarrista aggiunto, un membro non ufficiale della formazione, ovvero Eric Schermerhorn, una bellissima versione di quello che era il brano iniziale del loro primo album di due che produssero, più un live, Oy Vey Live Baby, se non erro era questo il titolo del loro live, che poi fu anche la loro ultima pubblicazione. Nella prima parte di Up vi ricordo che abbiamo ascoltato Black Star e Dollar Days, due brani tratti dall'ultimo lavoro di David Bowie. I Know It's Gonna Happen Someday, una cover di Bowie del brano di Morrissey. E in conclusione una versione live di Cactus, un brano dei Pixies registrato dal vivo appunto insieme a Moby. Tra i tanti ammiratori di David Bowie vi era anche un cantante che il 3 dicembre 2015 ci ha lasciato, un'altra grave perdita per il mondo del rock. Lui si chiamava Scott Weiland e con gli STP fece una cover durante il loro Unplugged. Molti anni fa, era il 1993, quando secondo diciamo la moda dell'Unplugged degli anni 90 anche gli STP si aggiungevano a una lunga lista e registravano un Unplugged molto molto bello. In questo Unplugged ci fu anche il tempo di fare una cover di quello che era già uno degli idoli, forse direi l'idolo di Scott Weiland, e di cui fece anche una cover nel suo secondo album da solista, una cover di Fame, direi anche quella abbastanza riuscita. Ma intanto ci ascoltiamo questo brano che in origine si trovava su Hunky Dory e nella versione appunto degli STP. Questa è Andy Warhol. A cement fix, be a standing cinema. Just my friends up just for show, see them as they really are. Put a people in my brain, or two new plans to have a go. Like to be a gallery, put you all inside my show. Looks as real, hanging on the wall. Andy Warhol, silver screen, can't tear them apart at all. Andy walking, Andy time. Take a little snooze, tie him up when he's fast asleep, set him on a pleasant cruise. When he wakes up on the sea, be sure to think of me and you. He'll think about Paige and he'll think about you. What a boring thing to do. Andy Warhol looks as free, hang him on the wall. Andy Warhol, tell them apart at all. Andy Warhol looks so screen, hanging on the wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Screen, hang him on the wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. This is at Montreal, and we like to play a song from our favorite artist, David Bowie. The song's called Starman. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on the radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, never said he said. After the sound began to fade, moving like a slow voice on a wave of hey, hey, hey. There was no DJ, that was crazy cosmic chime. There's a star man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a star man waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it, let the children lose it, let all the children boogie. I had to phone someone, so I picked on you. Hey, that's far out, so you heard him too. Switch on the TV, we can pick him up on channel 2. Look out your window, you can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa or he'll get us locked up and fried. There's a star man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a star man waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children lose it, let all the children boogie. Star man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a star man waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it, let the children lose it, let all the children boogie. We just ball and play and move like tigers on Vaseline. I hear the bitter comes out better. on a stolen guitar. You're the blessed with the spiders from Mars. Come on, come on, we really got a good thing going. Come on, come on, if you think we're gonna make it, you better hang on to yourself. Avete potuto ascoltare all'inizio del brano, Kevin Barnes degli Of Montreal rendeva omaggio al loro artista preferito. Insieme a lui c'era The Late B.P. Helium in questa versione acustica di Starman, a cui poi aggiunsero anche un riferimento nel finale a Hang On To Yourself. E noi continuiamo con una cover invece di John, I'm Only Dancing. In questo caso sono i Chameleons, un po' di anni prima. Una versione che trovate su un bonus CD di Strange Times, brano questo di David Bowie che sembra facesse riferimento a un commento un po' cattivo di John Lennon nei suoi confronti e al suo cross-dressing, alla sua, diciamo, ostentata bisessualità, che poi insomma c'è da discuterne, perché David Bowie poi ha detto più di una volta che quelli erano tempi diversi e quindi lui ci giocava un po' sopra, un po' come fece Brett Anderson, altro grande fan di David Bowie, un po' di anni più tardi. Quindi John Lennon probabilmente fece uno dei suoi commenti al vetriolo dicendo cosa stai combinando in quelle pose, e lui rispondeva, David Bowie rispondeva: John, sto solo ballando. Lei mi eccita, ma io sto solo ballando. E noi ci ascoltiamo questa versione dei Chameleons di John, I'm Only Dancing. I've experienced, always seems to mix. Joe is all strong, the bench lights, focus on. Hello there, hello there, you know I need somebody. I'm only dancing, she turns me on. I'm only dancing, she turns me on. Don't get me wrong, I'm only dancing. Yeah, yeah. I saw you standing there, I saw you standing there, I saw you standing from the stand, tell everyone I don't care. Hello there, hello there, you know I need somebody. Can you hear me, can you hear me, can you hear me? Red, I'm only dancing, she turns me on. I'm only dancing, she turns me on. Don't get me wrong, she shadow love was quick and clean. Life so well done, the scene. I saw you watching from the stairs. You're everyone that ever cared. Mother, you had me, but I never had you. Oh, I wanted you, but you didn't want me. Just gotta tell you, goodbye, goodbye. Father, you left me, but I never left you. Goodbye. E siamo tornati ad Up, sempre Radio Onde Furlane, vi ricordo come ogni venerdì dalle 19 alle 21 con una cover. In questo caso era David Bowie che rifaceva un pezzo di John Lennon, e anche perché prima ho detto una cosa, forse sembrava che John Lennon e David Bowie si odiassero, in realtà non è così. I due collaborarono, anche se non molto a lungo, a metà degli anni 70, collaborarono su alcuni brani come Fame, Young Americans, e David Bowie incluse anche una cover di Across the Universe nel suo album del 1975, a tal punto che Yoko Ono qualche giorno fa pubblicò il suo commiato a David Bowie, dicendo che John and David respected each other, they were well matched in intellect and talent, as John and I had very few friends, we felt David was as close as family. In sostanza John e David si rispettavano a vicenda, erano, diciamo, ben accoppiati in intelletto e in talento, e siccome John e io, appunto Yoko Ono, avevamo ben pochi amici, sentivamo che David era vicino, quasi come un membro della famiglia. Continua parlando di come David diventò una figura paterna per Sean. After John died, David was always there for Sean and me. When Sean was at boarding school in Switzerland, David would pick him up and take him on trips to museums and let Sean hang out at his recording studio in Geneva. For Sean, this is losing another father figure. It will be hard for him, I know, but we have some sweet memories which will stay with us forever. Quindi, dopo la morte di John, David era sempre disponibile per Sean e per me. Quando Sean era a scuola in Svizzera, David lo andava a prendere dopo la scuola e lo portava a fare dei giri ai musei, e lasciava che Sean girasse attorno, appunto, al suo studio di registrazione a Ginevra. Per Sean questo è come perdere un'altra figura paterna, sarà molto dura per lui, lo so, ma abbiamo dei dolci ricordi che staranno con noi, rimarranno con noi per sempre. E adesso ascoltiamo un altro musicista che ha fatto dell'esempio di David Bowie un po' una colonna per la sua carriera, sia da solista che con gli Orange Juice. Questa è una versione un po' particolare di un brano che uscì nel 67 come B-side di The Laughing Gnome. Questo è The Gospel According to Tony Day. Lui, naturalmente, Edwin Collins. Gospel according to Tony Day. The gospel according to Tony Day. The gospel according to Tony Day. If I find a girl, he'll take her away. Rotten Tony. Rotten Tony. Gospel according to Brendan O'Lear. The gospel according to Brendan O'Lear. The gospel according to Brendan O'Lear. If I buy him a scotch, he'll buy me a beer. Typhist. Gospel. machinists all sound so tiddy up this Malchex, eh? Party up moods, Nanty Vella set round on Tuesday. Real bad dizzy snatch making all the homies mad Thursday. Popo blind to the poly in the hole by Friday. When the fuck did the Monday go? I'm cold to this pick and puck show. I'm sitting in the chestnut tree. Who the fuck's gonna mess with? Dopo Edwyn Collins siamo tornati al David Bowie dell'ultimo album Black Star, con uno dei testi più avventurosi di questo ultimo disco. Girl Loves Me contiene praticamente un linguaggio particolare che si chiama Polari, che è una forma di slang tutto britannico usato da uomini gay attorno alla metà del XX secolo a Londra. Ha inoltre preso alcune parole da uno dei suoi libri preferiti, A Clockwork Orange, che in italiano conosciamo come Arancia Meccanica. Tony Visconti, il produttore, dice che the lyrics are wacky, but a lot of British people, especially Londoners, will get every word. Che insomma i testi sono un po' strani, sono ambigui, però molte persone che vivono a Londra, originari di Londra, capiranno ogni parola. This is the way I do cut-ups. I don't know if it's like the way Brian Gyson does his or Barrows does his, I don't know. But this is the way I do. I've used this method only on a couple of actual songs. What I've used it for more than anything else is igniting anything that might be in my imagination. I mean, it can often come up with very interesting attitudes to look into. I tried doing it with diaries and things, and I was finding out amazing things about me and what I'd done and where I was going. And a lot of the things that I'd done, it seemed that it would predict things about the future or tell me a lot about the past. It's really quite an astonishing thing. I suppose it's a very Western tarot. I don't know. Anyway, let's see what happens. Completed tension to America. Abbiamo ascoltato un minutino in cui David Bowie spiegava con la sua voce come avviene per lui la tecnica del cut up, quindi tagliuzzando i suoi testi e riproponendoli in un ordine tutto nuovo, un po' alla maniera di William Burroughs, anche se lui dice che non sa come lo facesse William Burroughs, di cui era amico, ma questo è quello che fa lui. Quindi lo fa vedere proprio in questo video e fa vedere che appunto prende un pezzo di testo, lo mette in cima, poi prende a caso un altro e via discorrendo. E in seguito abbiamo ascoltato anche TVC 15 dal vivo, tratta da Stage del 78, l'album di origine era Station to Station di un paio d'anni prima. E un po' di tempo fa il nostro ha anche pubblicato i suoi 100 libri, la lista, scusate, dei suoi 100 libri preferiti. Troviamo un po' di tutto, da testi misconosciuti a grandi classici come 1984 di George Orwell. Poi c'è il testo che lo ispirò ad andarsene dal suo piccolo quartiere per andare all'avventura, ovvero On the Road di Jack Kerouac. Poi c'è Silence, Lectures in Writing di John Cage. C'è un po' di tutto, testi sul soul, ma anche per esempio Francis Scott Fitzgerald con The Great Gatsby. C'è Black Boy di Richard Wright, Herzog di Saul Bellow, The Stranger di Camus. Insomma, c'è davvero di tutto e vi consiglio insomma di andare a dare un'occhiata a questa lista, che trovate molto facilmente su internet. Qualche anno fa, sarà stata una decina d'anni fa, David Bowie, David Gilmour e Richard Wright dal vivo omaggiavano un altro grande genio, ovvero quello di Syd Barrett. An old line at a shrine, haunted, collecting flowers, moonshine, washing line, like soon and fine. On the wall, mirror, Questo era David Bowie, I Love You Since I Was Six. Magari dalle sonorità e dalla voce poteva vagamente sembrare David Bowie, ma in realtà era un sentito omaggio dei Brian Jonestown Massacre in tempi ancora non sospetti. Era il 1996 quando pubblicavano questo pezzo nel loro album intitolato Take It From The Man. Ed era invece nel 1995 quando usciva uno degli album più convincenti di David Bowie, un'altra collaborazione con Brian Eno, si intitolava Outside. L'album è un disco molto cupo, molto tenebroso, sperimentale, e da questo album, che al quale sarebbe dovuto uscire un seguito, Inside, ma non se ne seppe più nulla, ascoltiamo il pezzo che chiude l'intero lavoro, Strangers When We Meet. Thank you. red sunrise. And it's a dying world, humming Rango. We scavenge up our clothes. All my violence, raging tears upon the sheets. I'm resentful for where strangers were. Having out your memories, halfway sadness, dazzled by the new, the open release. It was all that I feared, that whirling room, betrayed by volunteer. All your regrets ran roughshod over me. I'm so glad that we're strangers when we meet. I'm so thankful that we're strangers when we meet. I'm in clover. Death waits like a witch at night, and surely as our love is bright, let's not think about the passing time. But whatever lies behind the door, there is nothing much to do. Angel or devil, I don't care. For in front of that door, there is you. My death waits like a beggar blind who sees the world through an unlit mind. Throw him a dime for the passing time. My death waits to allow my friends, oh, times before it ends. Let's drink to that and the passing time. Ah, my death waits in your arms, between your thighs. Your cool fingers will close my eyes. Death waits there among fallen leaves, in magician's mysterious sleeves. Rabbits and dogs and the passing time. My death waits there among the flowers, where the blackest shadow cowers. Let's pick violets for the passing time. My death waits in a double bed, stairs of oblivion at my head. Pull off these sheets against the passing time. Behind the door, there is nothing much to do. Angel or devil, I don't care. In front of ed era una versione di My Death registrata dal vivo nel 1997 ai GQ Awards insieme a Mike Garson, un pianista che ha collaborato oltre che con David Bowie anche con Nine Inch Nails e Billy Corgan, altro grande, grandissimo fan e stimatore di David Bowie. E celebre la versione che registrò nell'ultimo concerto di Ziggy Stardust. L'abbiamo ascoltato in questa versione più ariosa, più jazzata, più eterea del pezzo. E noi stiamo volgendo questa puntata di tributo a David Bowie verso la fine, verso il termine di Up. Ci restano un paio di pezzi. Il prossimo è un brano che credo sia uno dei miei preferiti in qualche maniera di David Bowie, una versione dal vivo di Loving the Alien. One older song that we decided to do on this tour came about because Jerry Leonard and I did an arrangement for a New York show last year of this song, and it seemed to be satisfactory. It seemed to be the way that should maybe always have been done. I don't know. We like doing it this way anyway. This is called Loving the Alien. And your prayer. stairs, loving the idea. Thinking of a different time, Palestine, a modern problem, bounty and a wealth of land, terror in the best laid plan. Watching them come and go, tomorrow's only yesterday. Christians and the unbelievers hanging by the cross and me. Oh, oh. What if you pray all your sins are hooked upon the sky? Pray and the heathen lie will disappear. Loving the alien, and your prayer, it breaks the sky into believing the strangest things. Loving the alien, you pray till the break of dawn, strangest things, loving the alien, and your belief, you're loving the alien, believing the strangest things, loving the alien. Thank you. Joey Leonard on guitar. Una versione acustica di Loving the Alien, che era già un bel pezzo negli anni 80, anche su con un arrangiamento molto vicino ai gusti dell'epoca, qui in una versione acustica, e come avete sentito all'inizio del brano era così che sarebbe dovuta essere secondo David Bowie, un po' col senno di poi. E volge al termine questa puntata di Up con Nicky D'Andrea. Mi congelo da voi, anche se avrei voluto parlare di tante altre cose, ma il tempo è tiranno. Ci stava di parlare anche delle sue amicizie con altri grandi come Lou Reed, Iggy Pop e Robert Fripp, anche se tra poco vi faccio ascoltare una sua dichiarazione su come si conobbero, e mi concederò anche con un ultimo brano, quello che chiude l'intero Black Star, il suo album finale. Io vi saluto, vi rimando all'ascolto di Up della settimana prossima, buon weekend, cedo la linea a Sabbie Mobili. I was at home in my apartment in New York, Waterside Plaza, in July 1977, and the telephone went. It was Brian Eno, calling from Berlin. He said, "Hang on, I'm here with David Bowie, I'll pass you over." And David Bowie said to me, "Do you think you can play some hairy rock and roll guitar?" I said, "Well, I haven't played guitar for a while, I'm not sure, but if you're prepared to take the risk, so am I." Shortly afterwards, a first-class ticket arrived on Lufthansa to Germany. This was the first time I'd ever flown first class. As I sat in my seat and the stewardess poured me my champagne and leant forward, she said, "First class, it's the only way to fly," and I believed her. So, in 3 days in Berlin, I played all my guitar parts on David Bowie's Heroes. Now, keeping up little guitarist from Dorset, keeping up with characters and artists of the quality of David Bowie and Brian Eno, you have to be quick. Upon my shoes, I can't give everything.